l'eco del silenzio. Silenzio. Un'idea di Lucia Capparrucci. Buongiorno a tutti, da Lucia Capparrucci, e aggiungerei bentornati all'eco del silenzio. Spero che la pausa natalizia sia stata riposante e che il nuovo anno sia iniziato nel migliore dei modi. Ed ora passiamo immediatamente alle nuove notizie, silenziose come al solito. La prima arriva direttamente dalla Cina e riguarda i trattamenti con le cellule staminali e quindi indirettamente anche tutti quei viaggi della speranza che si sono organizzati appunto per andare a tentare queste nuove terapie. Da www.ilquotidianoitaliano.it del 10 gennaio 2012. Cina. Stop del Ministero della Salute alle sperimentazioni con cellule staminali. Di Federica Dabbo. Pechino. Da Oriente arriva lo stop per tutte le cure e i test clinici condotti con le cellule staminali non riconosciuti scientificamente. Il Ministero della Salute cinese, infatti, ha reso noto che il blocco delle sperimentazioni andrà avanti fino a giugno del 2012. È stata una decisione radicale per il paese, che nel 2010 è stato il primo esportatore mondiale di staminali, seguito solo dalla Germania. La Cina investe 44 miliardi di dollari l'anno nella ricerca e nello sviluppo di questo settore, spendendo per le applicazioni cliniche il 16,8% del budget, contro il 5,2% della ricerca di base. Tra il 2000 e il 2008, le pubblicazioni degli studi condotti dagli scienziati cinesi sull'uso terapeutico delle staminali sono saliti da 37 a 1116. Questo ha fatto conquistare alla superpotenza il quinto posto nella classifica degli stati all'avanguardia, dietro soltanto a Stati Uniti, Germania, Giappone e Regno Unito nel campo delle staminali. La Cina, proprio per il suo ruolo principe nella ricerca scientifica delle staminali, è stata per anni meta di molti stranieri. Il Baik Biotechnology, uno dei centri di ricerca maggiori, ha trattato finora 5.000 pazienti, di cui 900 stranieri. Nel 2010 erano oltre 200 gli ospedali che praticavano iniezioni di staminali per curare moltissime malattie come la sclerosi multipla, l'autismo, il diabete e il morbo di Parkinson, e proponevano terapie contro la paralisi. In base alle nuove direttive emesse dal governo, insieme al Food and Drug Administration cinese, gli ospedali non potranno più far pagare i pazienti per cure staminali sperimentali non riconosciute. Il provvedimento è il primo atto dopo numerosi tentativi di regolamentazione dello Stato nei confronti della ricerca sulle staminali e rientra nel nuovo programma annuale del settore medico. L'eco del silenzio. Silenzio. La seconda notizia riguarda una catena americana di abbigliamento che ha utilizzato per la sua campagna pubblicitaria, in una foto con vari bambini, un modello Down, quindi un bimbo con appunto la sindrome di Down. La notizia è rimbalzata oltreoceano ed ho letto veramente i commenti più disparati e posizioni anche molto contrastanti. E in vari blog di genitori di figli disabili e aggiungerei con disabilità anche molto differenti fra loro, sia per sintomatologia che per origine, ho letto quelli che definire punti di vista antitetici è quasi riduttivo. Da una parte c'è chi sostiene che una campagna di questo tipo non può che essere positiva in quanto dà un'immagine di normalità assoluta. C'è un bambino che gioca e scherza con altri bambini e nulla aggiunge o nulla sottrae il fatto che fra gli stessi ci siano delle differenze, diciamo, genetiche, o nel caso specifico di Ryan un cromosoma in più. D'altro canto, fra le critiche portate dai detrattori, c'è quella che accusa il marchio di aver voluto in qualche modo avere pubblicità di ritorno per questa sua scelta provocatoria o pseudo tale. Perché poi, oggettivamente, andando a vedere l'immagine, di provocatorio ha ben poco. E, ma questo è un mio modesto parere, non mi sembra nemmeno ammicchi eccessivamente. Passiamo ad un articolo che più o meno racconta tutto questo. Da CorrieredellaSera.it, del 7 gennaio 2012, se il testimonial della moda bimbi ha un Down. L'iniziativa di una catena americana fa discutere. Ryan, 6 anni, scelto per pubblicizzare la nuova collezione, di Elmar Burchia. Milano, con i suoi capelli biondi a caschetto, gli occhini azzurri spalancati, quel sorriso accattivante e la sua naturalezza davanti alla fotocamera, non è difficile capire perché Target, il secondo più grande rivenditore al dettaglio nel mondo dopo Walmart, abbia deciso di scegliere Ryan per il nuovo Deplan di moda per bambini. Ma il ragazzino di 6 anni non è un mini modello come gli altri. Ryan è nato con la sindrome di Down. Il piccolo Ryan sta facendo passi da gigante nel mondo della moda, sentenza il portale di settore Adweek. Nonostante quello che per molti è un impedimento non indifferente, Ryan è già una star tra i baby modelli. Qualche settimana fa aveva fatto la sua comparsa nel catalogo di Nordstrom, l'importante catena americana di negozi e di vendita per corrispondenza. Adesso posa accanto a piccole mannequin e modelli a pagina 9 del catalogo Target, sorridente e a suo agio, sfoggia una maglietta arancione con pantaloni scuri. E per una volta tutti approvano l'insolita scelta, anche l'inquieta e spesso severa blogosfera. C'è da dire che la famosa catena commerciale americana non ha mai voluto pubblicizzare il casting o attirare attenzione. Toccante e indicativo è ciò che scrive a tal riguardo il papà di un bimbo affetto da sindrome di Down sul blog Noah's Dad. Non è un catalogo d'abbigliamento speciale per gente speciale, e sulla sua pagina non viene enfatizzato da nessuna parte il fatto che Target è orgogliosa di presentare un modello con sindrome di Down. In altre parole, Target non si è affatto preoccupata di dare grossa importanza alla cosa, e questo mi piace. Insomma, un messaggio positivo che trova tutti d'accordo e invita società, aziende di moda e pubblicitari a cercare modi creativi per contribuire a promuovere l'inclusione, non più l'esclusione. Noah's Dad sottolinea: non è un caso che Target abbia deciso di usare per la collezione bimbo un modello con sindrome di Down. È stata una scelta intenzionale. Recentemente, un altro bambino con sindrome di Down aveva fatto discutere il mondo della moda e non solo. Un paio di mesi fa, Taya Kennedy, di soli 14 mesi, era stata scelta, tra oltre 2000 bambini, per i book della prestigiosa azienda fotografica inglese Urban Angels, solamente perché incredibilmente fotogenica per la sua vitalità e la sua allegria. In ogni caso, la madre del piccolo Ryan si dice onorata che il figlio stia rendendo orgogliosa la comunità Down. È un ragazzo bellissimo, dentro e fuori. Ci rende genitori migliori e una famiglia migliore. Visto che questa settimana abbiamo parlato di sindrome di Down, voglio consigliarvi una pagina in cui mi sono imbattuta assolutamente per caso, all'interno del sito www.sindromedown.it/comeaquiloni. Come Aquiloni o Quasi è un libro scritto da Alessandro Mosconi e che lui stesso, in una nota di presentazione, definisce una specie di grido di speranza e di dolore insieme, che, prendendo origine dal racconto per episodi della quotidianità, affronta con serietà ed ironia il tema della diversità e riflette sui sentimenti contrastanti che sta genera in chi la vive di riflesso ogni giorno. Sempre all'interno di questo sito, fra le altre cose, si trova anche una abbece Dario, sdragionato, sulla sindrome di Down e la disabilità in genere. Beh, non posso che consigliarne la lettura. L'eco del silenzio. Silenzio. Per l'ultima notizia ringrazio Marino Buzzi, che oltre ad essere uno scrittore, un libraio, un blogger, è una persona estremamente impegnata che lotta quotidianamente contro l'omofobia e lo fa facendo cultura. Marino Buzzi, oltre a tutto questo, è anche il creatore del gruppo Stop alle terapie riparative, gruppo in cui potete trovare il seguente evento, gruppo Facebook ovviamente: lettera agli ordini dei medici sul caso Francesco Bruno, e mi appresto a leggervene il testo. Questa è la bozza della lettera che ho inviato agli ordini dei medici. Qui sotto trovate anche gli altri indirizzi, leggetela. Gli indirizzi sono disponibili in rete, quindi a disposizione di tutti. Chiunque può mandare la propria lettera per esprimere opinioni o fare domande. Chiedo solo di mantenere un tono civile e non offensivo, perché su certi temi è facile che qualcuno esageri e che poi qualcun altro ricorra a vie legali. Sarebbe bello se scrivessero soprattutto le mamme e i papà. So che Agedo ha già scritto e ringrazio tutto il gruppo. Ma dovrebbero scrivere anche mamma e papà che non ne fanno parte. Anche genitori cui figli non sono necessariamente omosessuali. Grazie per il prezioso aiuto della dottoressa Paola Biondi, che come sempre si rende disponibile per la causa. Alcuni indirizzi potrebbero essere sbagliati. Se ne avete di aggiornati, postateli. La lettera è solo una bozza, è quella che io ho inviato. Nessuno vieta di modificarla, di accorciarla o tagliarla, o di scriverne una nuova in cui mettere in evidenza temi che io non ho trattato. Grazie a tutte e tutti. Marino Buzzi. Gentili signore e signori, vi scrivo dopo aver letto l'ennesima intervista del criminologo, psichiatra e docente universitario Francesco Bruno a proposito dell'omosessualità, che egli considera come qualcosa di anormale e contro natura. Per non parlare delle affermazioni secondo cui i genitori che accettano i propri figli e le proprie figlie omosessuali lo farebbero in modo ipocrita, in quanto comunque alla base ci sarebbe una sofferenza. In passato ci sono state denunce contro Bruno, egli è una figura pubblica molto amata, frequentatore assiduo di salotti TV e so anche che l'Ordine dei Medici ha più volte ribadito che ognuno è libero di dire e pensare ciò che vuole. Ed è vero. Mi hanno però insegnato che la scienza si basa su verità provate. Se domani uno scienziato andasse in televisione a dire che la Terra è quadrata, verrebbe con molta probabilità preso per pazzo. Le affermazioni fatte dal signor Bruno sono state rilasciate a un sito ultracattolico ed estremista che si chiama Pontifex, sito non nuovo ad attacchi violentissimi contro le persone GLBT, contro le donne e contro le libertà costituzionalmente garantite alle persone. Mi chiedo se sia possibile che un criminologo, uno psichiatra, un docente universitario, addirittura professore straordinario presso l'Università degli Studi di Salerno, e docente di psicopatologia forense e criminologia presso la Sapienza di Roma, possa rilasciare dichiarazioni lesive e offensive nei confronti delle persone GLBT, senza andare incontro a nessuna sanzione, di nessun tipo, neanche un richiamo da parte dell'Ordine dei Medici a cui appartiene. Bruno sostiene che chi dice che padre e madre sono contenti o accettano la diversità del figlio mentono sapendo di mentire. Per due genitori, sapere che il proprio figlio ha questa orientazione è un trauma anche grande. Magari lo superano o riescono ad elaborarlo, ma il colpo è molto forte. Questo fatto denota che anche a livello di comune sentire, e non è roba da poco, la omosessualità va considerata anormalità. È abbastanza ovvio che un genitore non preparato a questo evento, non informato su cos'è l'orientamento sessuale e spesso imbevuto di logiche omofobe assorbite, violenti o nolenti dal clima sociale eterosessista e sessista in cui è immerso, si trovi spiazzato alla scoperta che suo o sua figlio o figlia sia omosessuale. Lo sconcerto è scontato, come la difficoltà di accogliere una realtà che prima era distante anni luce. Esattamente come potrebbe essere, parliamo di reazione ad eventi inattesi, se la figlia gli si presentasse con un fidanzato di religione, etnia, lingua o razza differente, se il figlio presentasse una fidanzata che magari non aderisce agli stereotipi di genere conosciuti, se in qualche modo il figlio o la figlia si rivelassero differenti dalle aspettative genitoriali. La anormalità di cui parla è ben distante da quella statistica che utilizza per giustificare in parte le sue esternazioni sopra riportate. Anormalità nel senso che non rientra nella parte centrale di una curva di Gauss, che come molti sanno è utilizzata per rappresentare la distribuzione di frequenza di un fenomeno. La parte centrale raccoglie la maggior parte delle frequenze di un fenomeno, come a dire la maggior parte degli italiani mangia pasta regolarmente ed è in questo normale. I celiaci, quelli che stanno a dieta e chi per scelta non mangia pasta, è anormale. Alla stessa stregua, questo tipo di anormalità coinvolgerebbe le persone omosessuali laddove nella parte centrale della curva si raccolgono le persone eterosessuali che sono la maggior parte. Minoranza sessuale diventa anormalità sessuale che a sua volta si trasforma per Bruno e buona parte del mondo cattolico in anormali, malattia, disturbo. Vorrei inoltre sapere, in base a quali studi e ricerche, il signor Bruno afferma che Siamo nel campo quando l'omosessualità non viene scelta volutamente di anormalità funzionali, essendo il sesso volto naturalmente alla procreazione. L'omosessuale nato lo è per disturbo di personalità legato, probabilmente, ad un'errata assimilazione dei ruoli dei genitori o anche a cause organiche che sarebbe complicatissimo spiegare. Tuttavia, è nella stessa situazione dal punto di vista concettuale di chi è handicappato, sordo o cieco. Per queste categorie, con una certa ipocrisia, si dice diversamente abili, non vedenti e simili. Il gay è diversamente orientato per la sessualità e quel diversamente la dice lunga sulla normalità. Più volte, nelle parole di Bruno torna il concetto di scelta rispetto all'omosessualità. Ora vi chiedo, si sceglie forse di nascere eterosessuali? Perché si dovrebbe quindi scegliere di diventare omosessuali? In base a quali ricerche scientifiche, logiche o metodologiche il professore afferma questi concetti? Non c'è forse il pericolo che un docente come Bruno, di cui non posso valutare capacità altre, possa anche in maniera del tutto involontaria arrecare danno alle persone GLBT o trasmettere nozioni errate ai propri studenti e o discriminare o far sentire discriminati studenti e o pazienti GLBT? Capisco l'esigenza dell'ordine dei medici, visto che come tutti vivo in Italia e subisco sulla mia pelle, come altre persone GLBT e non, l'influenza culturale non solo della Chiesa Cattolica Romana, di rimanere fuori dal dibattito e lontano da polemiche. Ma vorrei ricordare che ci sono linee base decise a livello mondiale per quanto riguarda la cancellazione dell'omosessualità fra quelle che vengono definite come patologie. Chi afferma che questo sia avvenuto perché gruppi organizzati di gay, lobby, abbiano esercitato azioni di pressione, ignora completamente le dinamiche e i processi che vengono utilizzati nella comunità scientifica per approvare, abrogare o modificare categorie nosografiche. Gli ordini degli psicologi hanno già preso nettamente le distanze da ogni forma di discriminazione verso le persone GLBT, ribadendo anche che teorie come quelle riparative sono inutili e dannose e vanno denunciate. Da comune cittadino, mi piacerebbe che anche gli ordini dei medici prendessero le distanze da atteggiamenti fuorvianti nei confronti dell'omosessualità e offensivi nei confronti delle persone GLBT. Qui non stiamo parlando di un emerito sconosciuto che esprime teorie omofobe al bar. Stiamo parlando di un professore con cattedra, di un uomo pubblico, di un criminologo che ha l'opportunità di andare in televisione e parlare a milioni di persone. Come reagirebbe l'opinione pubblica se un professore a capo di una cattedra di storia contemporanea negasse l'Olocausto o lo sterminio degli ebrei? Credo che il mondo scientifico dovrebbe prendere posizione in merito ai continui attacchi, gratuiti e non supportati da prove scientifiche, di alcuni propri scritti. Cordialmente, Marino Buzzi. Seguono poi tutti gli indirizzi degli ordini dei medici. Ringraziando quindi ancora una volta Marino Buzzi, da Lucia Capparrucci un saluto e l'augurio di frenetiche letture.